mie braccia, i piedi miei dalla parte opposta della faccia. Ho visto che per camminare devo mettere una gamba avanti e l'altra indietro, e anche se mi sforzo posso volare in alto circa un metro per un secondo, e poi una strana forza mi riporta spiccicando il mondo, la chiamano gravità. Mi sono svegliato ed ho pensato che non c'è libertà, e non c'è libertà, che non c'è libertà, e non c'è libertà. Mi sono svegliato ed ho creduto di essermi svegliato, e invece poi mi sono accorto di essere ancora addormentato. I miei pensieri, le mie parole, i gesti, il mio rapporto con la realtà, soltanto meccanicità, niente volontà, il frutto inconsapevole di una catena di eventi precedenti a me e al mio presente. Mi sono svegliato ed ho creduto di essere cosciente, e invece niente, imprigionato i meccanismi chimici della mia mente. Sbattuto di qua, sbattuto di là, sbattuto di qua, sbattuto di là, come una palla dentro il filter dell'eternità. Mi sono svegliato ed ho pensato che non c'è libertà, e non c'è libertà, che non c'è libertà, e non c'è libertà. Mi sono svegliato e ho visto sofferenza intorno a me, e poi mi sono tagliato col rasoio mentre mi radevo, e tutta la sofferenza intorno a me è sparita. Ero da solo con la mia ferita, soffrivo solo io. Certo che dal mio stato fisico e mentale dipende anche il mio rapporto con la realtà. Mi sono svegliato ed ho pensato che... che non c'è libertà.